Arcangela Tarabotti. Alcune non ancora generate odono intonarsi alle orecchie il nome di monaca anche prima che sappino proferire. Tradimento accorto e perfidi inganni che insegnano alle miserelle innocenti e semplici ad esprimere con lingua balbettante quel nome che a suo luogo e tempo è da loro così fervidamente aborrito. Questa accorata e contemporaneamente sdegnata accusa alla monacazione forzata, una pratica molto in uso per un lungo periodo della storia umana per evitare ai padri di dar la dote alle figlie, fa parte della lunga denuncia alla oppressione delle donne che si intitola L'inferno monacale. L'autrice del testo è anche lei una monaca forzata, Arcangela Tarabotti. Bella, intelligente, disperata fanciulla che in questo scritto denuncia come i padri ingannino le figlie ancora bambine, le inducano a credere con menzogne che in convento troveranno il paradiso e poi le recludano, senza preoccuparsi della loro vocazione, facendo loro pronunciare il voto di rinuncia che in pratica le consegna al carcere del convento a vita senza che nemmeno se ne rendano conto. Da lì nessuna, nemmeno Arcangela, è mai più uscita. Il testo è molto duro e denuncia apertamente la inqualificabile vita in convento dove le fanciulle sono prigioniere, dove saranno costrette a subire le violenze e i sadismi delle superiori, a loro volta monacate a forza, che scelgono di rifarsi sulle novizie. E infine denuncia la dissolutezza di costumi delle monache ribelli che non hanno altro modo di assaporare quella vita che è stata loro negata che trasgredire tutte le norme morali del convento. Fino a non molti anni fa, alle bambine predestinate alla monacazione venivano date bambole vestite da suore e al posto della casa delle bambole ricevevano chiese in miniatura con tanto di mini ostensori e mini arredi sacri al posto di piattini e pentolini. Nel Museo delle Bambole di Angera, in provincia di Varese, ne sono conservati degli esempi. Quando poi le fanciulle pronunciavano i voti, firmavano un atto notarile di rinuncia ai beni di famiglia, che era il vero scopo della monacazione. Per pochissimi casi di monacazione forzata che hanno avuto esiti positivi, come quella di Hildegard von Bingen, che, grazie alla biblioteca dell'abbazia benedettina, in cui divenne badessa, poté studiare e approfondire la sua fame di sapere, ve ne sono migliaia che invece narrano di donne infelici, senza vocazione, strappate a forza al mondo e rinchiuse tra quattro mura. Come non ricordare a questo proposito Marianna Deleida, la famosa monaca di Monza di manzoniana memoria. Arcangela Tarabotti, pur senza essersi macchiata di alcun delitto, è sicuramente tra queste infelici. Oggi considerata una delle più importanti scrittrici italiane della sua epoca, Arcangela nacque all'inizio del Seicento a Venezia, dove fu monacata a forza appena adolescente nel monastero di Sant'Anna. Dalla sua prigione, Arcangela riuscì, però, a creare e mantenere relazioni culturali e sociali importanti, tra cui quella con l'onnipotente cardinale Mazzarino, grazie alla carica di maestra delle pute che le fu assegnata. Scrisse perlomeno 6 libri, di cui 4 pubblicati. Usò lo pseudonimo Galerana Baratotti, un anagramma del suo stesso nome che però mantiene il genere femminile. E dei diritti delle donne si fece paladina e portavoce, nel suo mirino non solo i padri, i fedifraghi, ma anche le leggi della Serenissima che permettevano tali abusi e la Chiesa che li accettava senza fiatare. Le sue relazioni sociali si svolgevano in parlatorio, il salotto delle monache, dove nella Venezia di quel tempo si incontravano letterati, poeti, artisti e nobiltà. Nonostante la grata che divideva le monache dal mondo esterno, in parlatorio esse potevano dissertare con i maggiori dotti dell'epoca durante le visite. Dopo la stesura dell'inferno monacale, fu accusata di intimità con un monachino e cadde in depressione poiché non le fu permesso difendersi. Tuttavia alcuni le restarono fedeli, tra cui il cardinale di Venezia di quell'epoca. E questo le bastò per rialzare la testa e decidere di continuare a scrivere. E scrisse Il paradiso monacale, meno autobiografico e duro, ma non privo di denuncia, che questa volta venne pubblicato. Divenne nota. e i suoi colleghi uomini cominciarono la puntuale opera di ridicolizzazione della sua immagine, che però resse, grazie all'abilità e profondità dell'analisi politica, sociale ed economica che portava alla monacazione forzata e all'oppressione di tante ingenue fanciulle. Lei stessa, novella Christine de Pizan, scrisse con passione e astuzia le ragioni della superiorità femminile, rispondendo ad un'ennesima satira misogina sulla vanità delle donne, molto in voga ai tempi, tanto da costituire un vero e proprio genere letterario, la querelle des femmes, che le sue amiche nobili le avevano fatto pervenire. L'opera, intitolata Antisatira, fu dedicata a Vittoria Medici della Rovere. Nel suo ultimo lavoro, Che le donne siano della specie degli uomini, difesa della donna, in risposta a uno scritto che sosteneva che le donne non hanno l'anima, smontò tutte le tesi misogine usando passi delle stesse sacre scritture. A 48 anni, arrabbiata e stanca, lasciò il corpo, ma non il convento. Una notevole versione romanzata della vita di Arcangela Trabotti è il testo teatrale di Antonella Barina, 3 in 1, Inferno e Paradiso, presentato e letto da me, Devana, su questo stesso canale YouTube. Vi auguro buon ascolto.